Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, alcuni giorni fa il sostituto procuratore nazionale antimafia Roberto Pennisi, in commissione parlamentare antimafia, nel corso della sua audizione, ha affrontato alcuni temi che possiamo così definire scioccanti quanto alla penetrazione delle mafie nel ricco nord-est Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, e lì ha introdotto il discorso della delocalizzazione dell'Ndrangheta, che ha un atteggiamento imprenditoriale nella sua strategia criminale. Sulla base dei dati a mia disposizione mi sono esercitato in un'attività di cartografo, ha detto Pennisi. Ho preso una cartina geografica del nord-est d'Italia e ho disegnato l'area interessata dalla futura delocalizzazione dell'Ndrangheta, Lametina e Crotonese. Tale area parte da Modena, investe Reggio Emilia, Salsomaggiore, Piacenza e Cremona. Attenzione, con Cremona siamo già in territorio lombardo, questa è una parte di Lombardia che sfugge a quella criminale che abbiamo conosciuto con l'operazione L'Infino del Crimine del luglio 2010, per come appunto ci è nota. L'area prosegue fino ad arrivare nel Veneto, dove termina. Questa è l'area del futuro, includendo Venezia. Questa è l'area alla quale bisognerà stare particolarmente attenti. È una zona di delocalizzazione, ha continuato Pennisi, che l'Ndrangheta, Lametina e Crotonese non colonizzerà mai. Fate attenzione a queste parole. Per evitare di commettere l'errore commesso dall'Ndrangheta regina. Continueranno invece in questa attività di delocalizzazione. Questo punto è importante perché se non si capisce qual è la strategia criminale dell'Ndrangheta con riferimento ad un certo territorio,